'Ndrangheta è tra le tre grandi organizzazioni criminali quella che sta affermandosi maggiormente a livello europeo, a livello internazionale, sicuramente considerata la più potente in Italia, e ha fatto del nord e in particolare della Lombardia e dell'Emilia-Romagna le sue nuove basi di accumulazione economica e di accumulazione di potere e di relazioni sociali. In Lombardia incominciò già nell'epoca dei sequestri di persona, a fine anni 70, primi anni 80, in Emilia ha incominciato ad affermarsi ventennio dopo, anche se era presente già dalla metà degli anni Ottanta. È un'impresa che va studiata con molta attenzione, cioè la tipica impresa, che è quella che ha una bassa barriera all'accesso, dove non sono previste delle capacità di management, delle capacità tecnologiche particolarmente avanzate, anzi per niente, ed è quella del movimento terra e il ciclo dell'edilizia del cemento. È lì che cerca le sue basi, perché controllando il territorio, essendo un tipo di potere molto legato al controllo del territorio, è dove si sposta la terra, che comincia ad esercitare il suo potere e dove la terra viene modificata attraverso dei piani di governo del territorio e dove si costruisce. È indubbio che l'edilizia, il ciclo del cemento, a partire dal movimento terra, a partire anche dalla logistica collegata con l'attività edilizia e anche lo smaltimento dei rifiuti collegato con l'attività edilizia, costituiscono il cuore delle relazioni economiche su cui si fonda l'impresa mafiosa. È stata presentata una ricerca su Reggio Emilia, alla quale ho partecipato anch'io, e un'altra invece su quello che io chiamo il quadrilatero padano, cioè Mantova, Cremona, Reggio Emilia, Piacenza. È un quadrilatero che segna una continuità territoriale, considerando il Po non come un grande divisore, come dal punto di vista amministrativo è, ma invece come un grande ponte tra le due rive, dando una omogeneità di identità alle imprese che si affermano scavalcando il Po, unite dal Po. E non è senza significato il fatto che una parte della ricerca che è stata sviluppata soprattutto sul piano statistico-quantitativo, utilizzando per la prima volta dei coefficienti e degli indici di correlazione statistici di una certa raffinatezza, che abbiamo potuto notare come la presenza di grandi aracri che Elia Minari ha evidenziato nella famosa inchiesta di cortocircuito a Brescello in provincia di Reggio Emilia, si è espansa a Mantova e sta cambiando l'economia mantovana. C'è un effetto di sostituzione visibilissimo che i nostri studi, fra l'altro aiutati da una particolare apertura della Camera di Commercio di Mantova, hanno consentito di mettere in luce, ed è evidentemente anche qui l'attività edilizia e il movimento terra. Partecipare a uno sbancamento di un pezzo di terra non è impresa ardua, basta avere un camion e due persone che guidano e sanno far funzionare una ruspa. Non c'è nulla di difficile. Sarebbe difficile entrare nel sistema dei subappalti, ma basta una bomba in un cantiere o basta un'intimidazione ben portata, anche con lo sfoggio del cognome di provenienza o di tutela, e si ottiene questo subappalto. E quello che noi possiamo dire è che le organizzazioni mafiose, cioè l''Ndrangheta in questo caso in particolare, sia avviata a conquistarsi un monopolio, non a partecipare, a entrare, altro che infiltrazioni, a entrare, ad avere il monopolio del movimento terra. Gli imprenditori locali, e questo l'abbiamo già visto nelle nostre ricerche sull'Interland di Milano, l'ho rivisto in queste ricerche sul quadrilatero padano, gli imprenditori locali vengono scoraggiati a partecipare, escono, cioè questi se lo prendono tutto quel settore. E fra l'altro, noi non abbiamo un'Italia in cui, come una volta, abbia una sua presenza particolare nel settore della chimica, della farmaceutica, dell'automobile, della gomma. È un'Italia che ha perso competitività in quasi tutti i settori, perfino le imprese di moda vengono prese da marchi stranieri. E sembra che l'unica cosa che siamo capaci di fare sia costruire. C'è una relazione stretta tra la presenza della mafia e il consumo di suolo, spesso inutile. C'è questa correlazione tra emergenza, costruzioni e uso del suolo, e quindi possono essere i terremoti, come possono essere le grandi opere, come possono essere i grandi eventi. E lì c'è sempre questa presenza. È vero che l'impresa mafiosa ha molte facce e che è in più settori, alcuni di tipo tradizionale e alcuni di tipo nuovo. Ed è vero che sembra essere in grado di entrare, non dico dappertutto, ma certo, in tanti settori, il turismo, il settore alberghiero, l'industria del divertimento, la ristorazione, le pizzerie, ma fondamentalmente il grande settore a cui guardare è quello in cui la risorsa è la terra. C'è tuttavia un settore che, parlando di pandemia, ci preoccupa in particolare, ed è il settore della sanità, perché è vero che in Lombardia ci sono varchi superiori rispetto a quelli che sono aperti in altre regioni per l'intervento spregiudicato di interessi privati. Non sono sempre interessi pregiudicati, intendiamoci. Spesso sono interessi altamente professionalizzati e dotati anche di una fama internazionale di rilievo. Però i varchi che sono stati aperti al privato hanno consentito, in condizioni di corruzione sviluppata, anche l'ingresso di organizzazioni criminali, che è stato provato anche già nell'operazione Infinito Crimine del 2010 per quello che riguardava la provincia di Pavia. E la sanità. In Lombardia i varchi sono superiori, perché superiore è stato lo spazio offerto all'impresa privata. Ma non basta che non ci siano varchi per l'impresa privata, perché poi ci sono gli appalti, perché poi ci sono le forniture, e noi abbiamo assistito, stiamo assistendo anche a operazioni investigative particolarmente raffinate condotte dalla Direzione Nazionale Antimafia, che ha intercettato un traffico di dispositivi di protezione individuale che partivano dall'Oriente, passavano attraverso mediazioni finanziarie nel Qatar e poi arrivavano comunque a gruppi italiani. Allora, come riconoscerle? Ecco, credo che alcune imprese si possano proprio riconoscere. Cioè, una mia convinzione, che ho espresso anche a membri del governo, è che non è vero che non si possono riconoscere, perché degli esperti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della magistratura, soltanto nel muoversi tra alcune carte, tra alcuni nomi, tra alcune località, sono perfettamente in grado di segnare dei grandi cerchi rossi intorno dei nomi e a indicare la necessità di avviare delle indagini approfondite senza obbligare le imprese a fornire carte su carte e quindi soffocare di burocrazia gli imprenditori sani. Stiamo attenti a dire non si possono riconoscere. Noi abbiamo fior di specialisti che sono in grado, appena sentono un nome o vedono un luogo, di tracciare questo cerchio rosso. In più ci sono delle cautele che bisogna osservare, che lo stesso procuratore nazionale antimafia ha ricordato durante un dibattito che abbiamo organizzato per l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, proprio su questo tema, e che personalmente, mi scuso per l'autocitazione, anch'io quando guidavo il comitato antimafia che appoggiava il sindaco Pisapia per arginare la presenza delle organizzazioni mafiose in Milano Expo 2015, avevamo comunque prospettato al sindaco. Cioè, non possono partecipare a degli appalti che riguardano beni importanti per la collettività, delle imprese che non hanno mai avuto nulla a che fare con quel settore. Cioè, se io devo garantire un buon lavoro, devo avere dei precedenti che testimonino che io quel buon lavoro lo so fare, ma questo vale per qualsiasi cittadino che abbia bisogno di un artigiano, si rivolge a qualcuno di cui sappia che ha lavorato bene, che sta lavorando bene, che ha una sua tradizione, non si affida al primo, dice: ma io ho cominciato a fare artigiano il mese scorso, e guardi, allora mi rivolgo a un altro. Non possono entrare in lavori pubblici importanti imprese che sono state fondate un mese prima del banco. Quindi non si tratta di conoscere o riconoscere, si tratta di usare delle cautele, delle protezioni nei confronti della collettività. Posso affidare, altra domanda, un lavoro di rilievo pubblico a delle imprese che hanno la propria sede nei paradisi fiscali e di cui non riesco a sapere l'identità? Ma come si fa a offrire una risorsa pubblica a un soggetto non conosciuto? Questo fa parte dell'ABC della democrazia. E allora il tema è sicuramente riconoscere, sapere riconoscere, ma anche sapere evitare che questi personaggi, dobbiamo sforzarci di riconoscerli, perché ci devono essere delle barriere comunque che funzionano, automatiche, non con carte di mostrare, autocertificazioni automatiche, così come il cerchio rosso sui consigli di amministrazione di società che hanno fatturati molto bassi rispetto agli appalti a cui concorrono e che quindi non sono evidentemente in grado di fronteggiare il tipo di domanda di beni o di servizi che arriva dallo Stato, dalle regioni, dalle amministrazioni pubbliche, quei consigli di amministrazione in cui siedono persone che hanno titolo di istruzione bassissimo e nessuna competenza economico-amministrativa. Io credo che la società debba, per un verso, utilizzare i migliori per riconoscere, cioè quelli che ci vanno a colpo sicuro per esperienza di decenni di lavoro, e dall'altra parte evitare che interessi di natura mafiosa possano comunque presentarsi al contatto, all'incontro con la domanda pubblica di determinate opere, di determinate attività.